Pero al bar a chiacchierar lo notai e lo fissai, chissà a letto come sarà, stavolta sai, Jerry si sposerà. Nonca. Ah, America, americano. Ah, America, americano. Dopo il bar lo portai in mia casa. Mi corazon e mi vagina, voglio il suo caso. Non capisco come habla. La. Non capisco questo diablo. La. Ah, America, americano. Dolce Gabbana l'han disegnato. La. Senza intoppi all'altare sto arrivando. La. Con quest'ansia penso che sto cacando. La. Ah, America, americano. Ah, America, americano.